Epilogue. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Se pronuncio il termine camionista, autotrasportatore, qual è la realtà che condivido immediatamente con tutti voi? File paradossali, ingorghi paradossali, enormi automezzi immensi, smisurati, che bloccano il paese, merci deteriorate. Ieri vedevo agricoltori regalare a Umarell e signore che andavano al mercato fasci di verdure, dice, li diamo e li regaliamo pur di non farli marcire dentro i camion. Beh, so che il camionista, so che questo termine ha in sé un'accezione già arcaica e antica, è un ascoltatore fisso della radio, quindi ne avrò molti in questo momento che mi stanno ascoltando. Questa mattina vorrei definire le radici del pregiudizio nei loro confronti. Devo dire che a noi tutti non fa molto piacere capire che esistano delle categorie che, se vogliono lecitamente, giustamente, esprimere il loro dissenso, la loro protesta, il loro non allineamento ad alcune normative, alcune leggi, alcuni regolamenti, alcune norme speciali, protestino, ma quando protestano i camionisti, come altre categorie che naturalmente sono dotate di una sorta di oggetto che aumenti il loro potere d'impatto. Un po' anche i tassisti hanno questo potere, ma i camionisti più di tutti. Un camionista in realtà è un'enorme massa di ferro, di acciaio, di pneumatici, di oggetti che occupano tanto spazio. E quindi sono come dei mastodonti, come degli enormi guerrieri che, se vogliono, si mettono tutti assieme e fermano il paese. In questo c'è, diciamo, una sottile forma di sproporzione rispetto alla violenza dell'impatto che può avere una protesta di camionisti, come invece una protesta di farmacisti, ad esempio. Che fanno i farmacisti? Cavalli di Frisia, di preservativi e di supposte per bloccare il traffico? Non possono, poverini, possono protestare come protesta ogni persona. Protestano i giornalisti, non scrivono sui giornali, non escono i giornali, protestano i medici. Protesta qualsiasi categoria, scusate, dovevo bere un goccio d'acqua perché io, come la persona qua in studio, stamattina siamo colpiti, affetti dal morbo che attraversa tutto il paese. Ce lo teniamo, ma riusciamo ugualmente a fare il nostro programma. Beh, se dietro questa sorta di impatto, di violenta e a volte prepotente forma di mostrare la loro presenza che hanno i camionisti, esiste una letteratura, una fittissima letteratura, un'iconografia del camionista che probabilmente è quella che loro maggiormente vogliono osteggiare, in cui non si riconoscono, in cui non si ritrovano, che giudicano viziata dal terribile pregiudizio. Beh, noi questa mattina invece la calcheremo punto per punto, proprio per scoprire la genealogia e dell'essenza del camionista nella nostra immagine generale. Se qualche camionista, autotrasportatore in ascolto ha modo di cambiare il nostro pregiudizio, di correggere questa che è semplicemente una lettura iconografica, quindi artificiale, quindi basata probabilmente sull'immaginifica creatività di qualche regista, qualche autore di film, lo faccia. Il numero è 800240024. Fermi, fermi! Lasciate parlare me! Volauti, conosciamo i tuoi diritti. Ma io e i tuoi compagni ti chiediamo, a nome della categoria, di rinunciare a questo viaggio. E le cambiali alla fine del mese chi è che me le paga? Te? E a Matteo? Chi è che ci ha pensato? Te? Come mi hai detto quella volta là? Non è di mia competenza. Beh, adesso te lo dico io. Non è più di tua competenza. E levatevi dai piedi perché io non mi fermo. Vi metto sotto a tutti quanti. Buongiorno Giuseppe Sansonno. Buongiorno. Questa scena, che tratta da un film, potrebbe essere la cronaca di avvenimenti accaduti in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Invece, come mai la realtà a questo punto, che viene trattata come cronaca, gestita sui giornali, trasformata in immagini, in pezzi televisivi, in letture, in persone che protestano, è così vicina allo stereotipo che nasce dal cinema? Il film è del 74, di Il Bestione di Sergio Corbucci. Il Bestione è un titolo che fa riferimento all'enorme mezzo, al camion, però fa anche echeggia in questo nome, anche in questo titolo, anche un po' la rudezza di il bestionismo che per stereotipo si anche come stereotipo, si come cliché, certo. I due camionisti hanno uno il volto rincagnato di Michel Constantin, che ha fatto molti film noir francesi, e dall'altro c'è Paolo il Caldo, ovvero Giancarlo Giannini, appunto col solito ruolo alla Vermeuller del siciliano, pieno di testosterone, di voglia di fregole sessuali, e insieme comprano questo mezzo e si trovano a scontrarsi con uno sciopero in atto. Effettivamente i problemi di categoria evidentemente erano già forti allora, e Corbucci pone il dito sulla piaga, li mostra già in questo film di genere, ma molto ricco di sintomi, di curiosità. C'è sempre questa accezione che abbiamo noi individuato. Non ci interessa questa mattina, non è nostro compito, non è nella nostra vocazione, o perlomeno non ci va di farlo questa mattina. Non vogliamo trattare l'attualità, non vogliamo trattare le problematiche per cui i camionisti hanno bloccato l'Italia in varie fasi, hanno creato quelle immagini catastrofiche che ci hanno riempito gli occhi e ci hanno vuotato i mercati generali in questi giorni. Non è questo di cui voglio parlare, ma voglio parlare però come mai sia così combaciante rispetto allo stereotipo, rispetto alla lettura cinematografica, rispetto alla letteratura, rispetto all'idea che siamo fatti, poi una realtà che tocchiamo con mano. Perché il camionista, quando si muove in questa maniera? Perché la sua protesta deve essere qualcosa che pesi sulla pelle di tutti i cittadini, sia emotivamente ma anche concretamente, quando altre categorie, pur nella lecita loro possibilità di protestare, di scioperare, di pubblicamente dimostrare il loro dissenso, non creano questo problema? 800240024. Dammi lo strumento. Ma che sei matto con ste mani? Ma che stai scherzando? Allora, aspetta un attimo. Ami, ma si buono, fio mio. Questa è il signora che c'ha competenza, lo vedi? Competenza? Competenza di che? In camionista? Ma i camionisti sono bravi. Io mi ricordo facevamo con un camionista, era tanto buono e bravo. E poi questi, sai, che ti ricostano soprattutto. E poi mi sono stupato, vabbè, fatti gli signori, dai. Oh. Che tu reggi a bottietta, così fai qualche cosa. Ma insomma, me la fa o non me la fa l'iniezione? Ah, signore, è fatta. Gliel'ho fatta. T'ha fatto male? Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male? Ah, giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è? Io la saluto, io signore. Io vi ringrazio. Mi vado a fare una mezz'ora di sonno. Questo è un epitafio che posta la storia del cinema. Sta mano può essere ferro e può essere piuma. Er Principe, ovvero Mario Brega, col ventre dilatato dalle code alla vaccinara, col fazzolettone rosso intorno al collo e l'enorme cavezza cristologica, insomma, interpreta questo camionista che è entrato nell'immaginario collettivo italiano, che ha la mano delicata, questa mano che può schiacciare, pietrificare, insomma, distruggere chiunque, ma anche riuscire a penetrare nei glutei di Lella Fabrizi in maniera così indolore. Allora, vediamo se abbiamo già la possibilità di enumerare alcune delle caratteristiche che abbiamo lambito adesso semplicemente il camionista. Innanzitutto la prestanza fisica. Per gestire e guidare il bisonte occorre prestanza fisica, questo è indubbio, con tutte le possibilità tecnologiche, i servosterzi, le pompe pneumatiche che può trovare a sua disposizione un camionista nel corso della sua operazione, della sua attività professionale, è chiaro che occorre vigoria, forza. Guidare un autotreno, un tir, un camion, comunque richiede qualcosa che ha a che fare con una tenuta fisica importante. Seconda cosa, una sorta di poetico senso di guasconeria del camionista, che però c'è sempre questa sottile minaccia, può essere piuma, oggi è stata piuma, può essere anche ferro, quindi il camionista è una persona che può far sentire le sue ragioni in maniera forte, virulenta, assolutamente violenta. Altra cosa, l'aspetto romantico, il camionista è anche un grande amatore, la sora Lella ha fatto l'amore con un camionista, poi via via vedremo quanto il camionista, un po' come il marinaio, essendo una persona che si muove, che ha dei punti fissi, dei punti di transito, in ogni luogo possa avere la possibilità di consumare amori. La fibra fisica è importante per reggere l'alienazione di un lavoro che ti porta a stare 76 ore di continuo su queste strade, quindi reggere anche i nervi devono reggere, e questo storicamente è avvenuto, insomma. E poi c'è questa particolarità che dicevi tu di spirito cameratesco, che si lega anche molto a delle comunicazioni che si possono fare da un camion all'altro da sempre, prima ancora dei cellulari. Questo è, parlando sempre di realtà condivisa, il codice baracchino, in fondo sono stati i primi a comunicare in maniera assidua. Il primo vero social network esistente in Italia è quello che avveniva tra i camionisti. guarda quanto ha le caratteristiche il social network. E tutto erano collegati tra di loro, ognuno di loro aveva una sigla che lo identificasse, come oggi il profilo, l'alias, l'avatar e via dicendo. Loro avevano una sorta di necessità di scambiarsi informazioni utili, fosse anche avvertire di una fila, avvertire di un'interruzione o avvertire di un posto di blocco della polizia o della guardia di finanza. Quindi aveva un fine di una socializzazione finalizzata al miglioramento della loro condizione. Quindi oggi la realtà condivisa di cui vogliamo parlare è la condivisione dell'immagine del camionista. 800240024, Fabrizio, primo ascoltatore e primo autotrasportatore dipendente. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io non sono direttamente un trasportatore, cioè nel senso faccio la professione camionista, ma sono dipendente. Ma lo guida il camion? Certo, lo guido per 9 ore al giorno e a volte anche 13 ore, non di guida, ma di impegno lavorativo. Ma noi non, da fuori non vediamo se siete padroncini o dipendenti, vediamo una persona che guida. Esatto. Sì, guido il camion, anzi adesso mi sto fermando perché sono al telefono, stacco il vivo a voce e prendo in mano il ricevitore. Perfetto, ottimo. Fatto. Ed è la cosa primaria. Io ho da fare delle osservazioni, anche se prendo atto che questo sciopero è lodevole, nel senso che è giusto far valere i propri diritti, non è giusto ledere i diritti degli altri però. È quello che io sommessamente cercavo di far capire, ognuno ha diritto di protestare, figuriamoci, se no non saremmo una popolazione civilizzata, ma vedere quali sono i limiti che la protesta individuale poi pesi sugli altri. È chiaro che voi avete un'espansione di varie tonnellate la vostra persona, se scendete in piazza o per strada voi, ognuno di voi vale un 200 metri quadri di ferro e acciaio, ecco. Certo, è proprio quello il problema. Di fatto fermare 10 camion vuol dire occupare una superficie di 1 chilometro per 3 metri di larghezza. Nemmeno 3 fabbriche intere occupano tutto questo spazio se gli operai dipendenti vanno a dimostrare. Certo, ma il problema è un altro. Le persone che oggi contestano i prezzi, contestano il caro gasolio, contestano tutto questo, sono anche le stesse persone che sono responsabili di una crescita, di una crescita di un vortice alla riduzione del prezzo pur di lavorare. Qua dovrebbero intervenire, qua dovrebbero denunciare chi lavora sotto costo, chi sfrutta le persone che non vengono retribuite neanche con la paga base. Ecco, lei Fabrizio entra in merito giustamente agli aspetti pratici della protesta e ho pieno rispetto a quello che dice, però in questo momento non ho nemmeno gli strumenti per approfondire questo tipo di dibattito, poi non è questo lo spazio. Io in realtà volevo andare a monte. Diamo per scontato che comunque ogni protesta ha i suoi validi motivi o la sua dialettica all'interno. Facciamo un passo indietro rispetto a quello che dicevamo prima. Perché il camionista quando protesta deve rompere le palle al mondo intero, mentre un'altra persona protesta semplicemente facendo sentire i motivi giusti della sua protesta nei luoghi e negli ambiti giusti? Vi rendete conto che ognuno di voi in realtà quando si ferma un'immensa quantità di esseri umani, di traffici, di movimento. Il camionista in realtà si rende conto di essere qualcosa di molto più potente, molto più forte di ogni altro essere umano con il diritto di protestare. Sì, allora, dobbiamo entrare in questo preciso momento, in questo merito, va bene. Allora no, faccio notare una cosa sola. Esiste una mansione per ogni persona che esiste su questa terra. C'è chi fa il giornalista, c'è chi fa l'attore, c'è chi fa l'operaio magazziniere e c'è chi fa l'operaio autista. Perché l'operaio autista deve fare anche mansioni di facchinaggio e non gli vengono riconosciute? Deve fare tutta una serie di lavori che non è strettamente nella sua mansione. Questo serve perché? Perché sennò ti abbandonano a te stesso. Noi abbiamo un grosso problema. Sì, ma guardi, no, Fabrizio, non le voglio dare sulla voce. Sì, su questo sono perfettamente d'accordo. Ma perché quando protestate non scendete a piedi come fanno tutti e protestate a piedi? Voi vi portate dietro il camion. È come se io, metta per assurdo, mi portassi sulle spalle l'edificio di Radio 24 se volessi protestare in nome dei giornalisti radiofonici. Un titano. Diventerei una sorta di... Capisce? Scusi, ma sì, ha pienamente ragione, ma l'autista purtroppo vive per 5, 6, a volte anche 15 giorni sul camion. È una sua casa. Lui esce di casa, scende a piedi, ma posteggia la sua casa. Sì, ma la posteggiasse nei parcheggi, non in mezzo alle autostrade. Ma infatti io sono in disaccordo con chi ha bloccato completamente. È questo sto dicendo io. Ma io sono completamente in disaccordo. prendo atto delle ragioni di questo sciopero. Assolutamente, che ogni sciopero vale su buone ragioni, ma perché, l'impatto perché mi sembra forte rispetto. Sì, sì, prego. Allora, io posso portare l'esempio di una piazza che ho visto. E avevano lasciato le corsie d'emergenza libere, avevano fatto posteggiare i camion in fila indiana e lasciando lo spazio di manovra tra un camion e l'altro, avevano fatto le cose con criterio. E questo è un modo educato di fare sciopero, perché devi lasciar vivere anche le altre persone. Poi, se vogliamo addentrarci sul fatto che la merce ritardi questo e quell'altro, purtroppo si sa, fa parte del discorso sciopero. Ma non è giusto che per far valere il proprio diritto si vada a ledere gli altri diritti. Io questo l'ho già detto fin dall'inizio. Mi sembra chiaro questo punto. Andiamo avanti. Stiamo Gualtiero dalla provincia di Aosta. Gualtiero, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiarito con il suo collega tutto quello che potrà riguardare l'attualità, ritorniamo però alla figura del camionista, perché mi interessa. Perché se accade questo, se in questa maniera ci si muove, evidentemente degli stereotipi di cui stiamo ragionando, qualcuno appartiene ancora a questa categoria. O no, me lo dica lei. Qualcuno c'è, naturalmente, purtroppo quei pochi che ci sono, perché per fortuna sono pochi, quelli che si comportano, diciamo, male o comunque secondo quello che sono i dettami tipici dell'essere prepotente, oppure di essere volgare, o magari di essere comunque al limite della legalità. Qualcuno c'è, quei pochi che ci sono purtroppo si notano e tante volte fanno notizia. C'è da dire che molti di noi sono invece molto rispettosi di quelle che sono le regole, anche perché abbiamo tutta una serie di vincoli che sono quelli che fanno crescere a volte un po' quella piccola rabbia che non si riesce a sfogare quotidianamente. Senta, mi dice com'è la sua giornata per capire quanto il quotidiano del camionista poi rientri nel romanzo del camionista. Io per esempio sono alla fine della mia giornata, nel senso che sono partito ieri sera alle 22, ho viaggiato tutta la notte, sono andato in Francia, ho cambiato un rimorchio e sto tornando indietro. Tra poco cambierò con il mio collega, che andrà a fare anche lui il suo giro del giorno, e quindi io avrò completato le mie 9 ore di guida in un totale di circa 12 ore via di casa. Questa mattina si è fermato all'autogrill, si è sciacquato la faccia, ha preso il caffè, come ho visto fare molte volte ai suoi colleghi. Sì, appunto, tante volte dobbiamo un po' così arrangiarci, come si dice un po' da noi, vita da zingaro o comunque una vita da cani, perché usando delle parole per non essere troppo volgari, la si fa contro le ruote come fanno i cani e si dorme nella cuccia, che il nostro gergo è la brandina che utilizziamo per dormire qua sul camion. C'è ancora la brandina dentro il camion? Certo. Luogo naturalmente di innominabili fantasie. Se corredata delle immagini, sì. Le immagini dei calendari non ci sono più, però. No, perlomeno io sono. Avrete l'iPad incorporato al cruscotto? No, anche perché è vietato guardare qualsiasi cosa che non sia eventualmente un navigatore satellitare. No, ma quando vi fermate, dico, non c'è più bisogno del calendario attaccato. Certo, naturalmente adesso con i collegamenti internet che ci possono essere ovunque, anche all'estero, si può fare di tutto e di più. Il cellulare poi è un classico per eventualmente tenersi il collegamento con la famiglia, per avere sempre informazioni dai colleghi per eventuali problemi. E il baracchino. Ma l'abitacolo è proprio come fosse l'interno di una tenda da campeggio, di una roulotte? No, a dire la verità, gli abitacoli moderni sono dei salotti, sono letteralmente dei salotti di tutti i comfort, quello che può essere il sedile ad azionamento pneumatico per attutire tutte quante le buche, le sconnessioni della strada, perché i camion reagiscono anche in maniera proporzionale al loro peso, visti tutti gli avvallamenti, certo, di queste sottospecie di mulattiere che si ostinano a far pagare come autostrade. E quindi abbiamo anche l'aria condizionata, c'è il riscaldamento autonomo con il motore spento per poter stare anche un pochettino al caldo di notte. La notte come si fa? Ci sono tutta una serie di cose che appunto garantiscono un ottimo comfort. Il bar c'è, sì. Frigo bar. La qualità di vita è naturalmente legata anche poi purtroppo a quei vincoli di cui parlavo prima, ai quali siamo costantemente sotto controllo da parte giustamente anche delle forze dell'ordine. Dove, i vostri eterni nemici, è chiaro, i vostri eterni nemici. Ma no, onestamente io devo dire che essendo uno che 15 anni si comporta, tra virgolette, bene, e ho avuto sì e no finora 4 verbali per delle sciocchezze, quindi mai niente di grave. Allora, ci fermiamo soltanto un istante, devo dare la linea alle informazioni della borsa, poi riprendiamo con lei, con altri suoi colleghi, perché mi piace entrare nel vivo, perché vedere soltanto da fuori, vederli solo nel momento della protesta, è un'immagine parziale. Camionisti che raccontano il loro quotidiano, contrapponendolo e confrontandolo con il quotidiano romanzesco, mi pare questa mattina un'interessante maniera per capire meglio il problema e i protagonisti di quello che sta accadendo. 800 24 00 24. Melog, la realtà condivisa. Sì, il padrone ti vuole. A quest'ora? Stanotte i signorini non dormono. Lo credo anch'io. Servizio urgente. Ma se siamo appena arrivati. Vabbè, anch'io ero a dormire, ragazzi. È un carico di gasolio per la spesa, c'è un premio. Sarà per voi altri due. Oh, tu ti prendi 666 nuovo, hai visto che bellezza, eh? Il carico è già a posto? No, mi dispiace, ma io devo fare un salto a casa. Se si tratta di partire alle 7 come al solito. Ma che alle 7? Se ti dico che è urgente. Insomma, non volete partire. Per me. Vabbè. Vuol dire che se non te la senti io ci manderò Rico e Carlo. Oh, mandateci pure chi vi pare. Stiamo attraversando l'idea del camionista, come l'ho visto l'immaginario cinematografico, lo facciamo con Giuseppe Sansonna, ci stiamo confrontando con reali camionisti, camionisti contemporanei, che cercano di aiutarci per quanto possibile a trovare i segni del luogo comune nell'attualità o rettificare quello che secondo loro è un giudizio errato, sbagliato, basato su pregiudizi. Giuseppe Sansonna, di cosa stavamo parlando adesso? Questo film? Questo era Fari nella nebbia di Gianni Franciolini del 1941, ovvero in pieno conflitto bellico il cinema proprio a squarciare il cielo di carta dei telefoni bianchi, delle laccature, dei salotti dei telefoni bianchi e a entrare sulla strada. Il primo vagito del neorealismo, che anticipa il neorealismo con Franciolini, parla proprio di camionisti, è sintomatico, parla di questo volto tirato e affaticato di Fosco Giachetti che appunto percorre lunghe ore nella notte, un film pieno di esterni notturni, di grandi viaggi, di lunghi viaggi faticosi, tra l'altro trasportano proprio gasolio, insomma prova a raccontare la povera gente, le fatiche, i disagi, parlando proprio di questa categoria sociale, descrivendola molto bene. Tra l'altro lui avrà questa moglie che cerca di tenere in casa, che vuole fare una vita frivola, poi si innamorerà per un periodo della ferita, che poi andrà a incontrare nella realtà la morte con Osvaldo Valenti, uccisa dai partigiani a Salò, che qui incarna la donna lussuriosa e fatale che svia per un momento l'uomo solido, rude, ruvido che è il camionista, appunto incarnato da Giachetti. A parte degli stereotipi cinematografici, mi hanno segnato in questo momento su Facebook un fumetto di cui dimenticavo anni 70, Il camionista, della serie dei fumetti Salaci, con Salaci per dire sì, una, Salaci, fumetti zozzi, sì diciamo carta da manovella detta in termini così. Il camionista c'era, come c'era il Monta, come c'era il Lando. Sì, perché quella frore là che sì, si rimanda comunque un immaginario torrido molto, infatti, particolare. Ho preso a caso su eBay, dove è merce molto, molto rara, per €4,99 c'è un rarissimo numero del camionista, c'è appunto questo camionista, non so bene chi sia il volto che lo impersonava, perché c'è sempre la riproduzione di un personaggio reale, un signore baffuto che beve gasolio steso sotto un camion, con una signorina naturalmente totalmente in esposizione, e il titolo è Il buco della Bernarda, è testuale, c'è su eBay, lo stanno vendendo. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao Gianluca. Niente, volevo dire riguardo ai camionisti appunto di oggi, che almeno io faccio ormai questo lavoro da 12 anni, nonostante sono giovane, però a me non mi è mai capitato di essere preteso dalle donne, nonostante viaggio molto, ho fatto l'estero di qua e di là. Ah, ecco, ma tu stai sfatando il mito del camionista Don Giovanni. Sì, almeno secondo i racconti dei colleghi più anziani questo viene visto nostalgicamente come un ricordo. Ma quali erano le donne dei camionisti? A parte le signore prezzolate che stazionavano lungo il percorso, Quali erano i luoghi dell'amore del camionista? Loro... Ne racconti naturalmente. Ne racconti, loro mi lantano di segretarie, di impiegate insoddisfatte del marito, manager. Quando vanno a scaricare che... c'è sempre un magazziniere femmina che... Sì, esatto, proprio così. Raccontano sempre di queste segretarie che invitavano per il dopo lavoro, se sapevano dove andare a mangiare, raccontano di bariste piuttosto che di commesse dell'autogrill, ecco, tutti così. Ah, commesse dell'autogrill, incontri un po' fortuna. Come la canzone di Puccini, Autogrill, quella Sì, ma il luogo della consumazione è quella brandina che ha descritto il tuo collega. Certo. Sì, che poi una volta era una brandina, ma adesso si parla di veri e propri letti, con doghe in legno. Tu come ce l'hai? Io c'ho il letto, c'è un materasso con sotto delle toghe in legno. A quante piazze? Tatami, cioè. Diciamo che è una piazza scarsa, un po' meno di una piazza, un po' scarsa. Vabbè, che vuol dire? Di larghezza, di lunghezza è anche più lunga di un letto normale, perché la cabina è più lunga. Comunque, come diceva l'altro collega... Vabbè, in verticale puoi fare qualunque cosa. Esatto, sì. Volendo c'è il letto a castello, c'è anche due letti, uno sopra e uno sotto, c'è il frigo bar, insomma c'è un po' tutto sul camion oggi. Però tu lamenti il fatto che al di là di questa dotazione semovente è leggenda la disponibilità di femmine procaci lungo il cammino del camionista. Esatto, sì, sono racconti e ricordi, ma io ormai lo faccio da 12 anni, nonostante faccio l'estero e non sono come nei film con la panza e tutto il resto, sono anche abbastanza giovane, non mi è mai capitato niente del genere, a parte una che insisteva in seconda corsia di sorpasso a affiancarmi affiancare il mio camion per mostrarmi il suo petto, diciamo. Ah, cioè si ignudava le tette nel sorpasso? Sì, e controllava che io guardavo, ma... E guidava lei? Ma lei guidava? Certo, stavo guidando. Ma la signora? Guidava pure la signora? Guidava la signora, ma aveva il tettuccio quello trasparente sopra. Io ho notato che era di fianco a me per svariati chilometri, ho detto che cavolo vuole, ho guardato, ed era lì che mi mostrava tutto. Quindi un esibizionista femmina con particolare dedizione nel turbare i camionisti. Sì, ma quello è stoico, sì. Non ha ceduto però. No, volevo, io ho fatto le segnalazioni eccetera, ma non appena ho fatto capire che se c'era qualcosa di fermarsi, ho schiacciato l'acceleratore e è partito. Beh, guardi, è l'equivalente di quei signori vanno con l'impermeabile e con i pantaloni dal ginocchio in giù. Volevo raccontare l'unica cosa che mi era mai capitata, riguardo, ma per il resto. Ma internet, i collegamenti internet, i social network, sì, sono usati dai camionisti? Io ho Twitter, Facebook no perché non mi piace, ho Twitter, ho Skype, non incontro molta gente, non incontro molti colleghi con i social network, però ci sono. Usate il baracchino ancora, esatto, il vecchio? Esatto, usiamo il baracchino per le informazioni, ma ormai anche quella è una cosa per i più anziani, diciamo, noi giovani sì, magari se non sappiamo una strada o non ci vogliamo avventurare sì, se no per quando siamo in bisogno di compagnia, diciamo, usiamo il social network. Quindi vabbè, questo è un dato, è un'informazione. Il baracchino appartiene a una generazione analogica dei camionisti, la generazione più moderna, più contemporanea dei camionisti, in realtà usano il social network. Quindi se i camionisti che in questo momento sono collegati nei social network volessero dare un loro segnale, voi ci trovate su Twitter e ci trovate anche su Facebook. Vieni giù che ti spacco la testa, vieni giù. Spacco la testa? A chi spacchi la testa, A chi? Figlio di puttana sei te che a momenti mi fai andare fuori strada, stronzo! Eri te? No, mia nonna era. Comunque non sei mica buona a guidare quella roba lì. Per poco non mi sbatti fuori strada, a momenti mi ammazzi. Sì, perché te sei buono invece. Ma va a cagare, stronzo. Ma va a cagare te, stronza! Stronzo sei te! No, stronza sei te! Ci siamo arrivati, Giuseppe Sansonna, finalmente, è stata tanto richiesta, me la stanno chiedendo da una mezz'oretta circa su Facebook, la donna camionista, che è l'apoteosi di tutte le fantasie, ha la rudezza, la libertà, la disponibilità, l'aggressività, l'alcova incorporata, è anche donna, è avvenente nel caso di Serena Grandi. Ovvero Teresa di Dino Risi, qui con questo look, con queste bretelle che cingono le enormi ghiandole mammarie e questi jeans strappati alla Daisy di Hazard, che ingaggia questo duello sulla strada con Luca Barbareschi, leggermente fuori ruolo, visto che lui ha la faccia più da chauffeur o da steward. Tutto sembra aeroportuale, certo. Però comunque funziona dal punto di vista erotico, la scintilla fra i due. 800 24 0024. Ci fermiamo per un istante e diamo la linea alle informazioni del traffico, che naturalmente saranno ascoltatissime da tutti i camionisti in ascolto. Melog, la realtà condivisa. Beh, sì, certo, il camion è sicuramente il premio più importante per me. Io non, vedete, a me non interessa molto se divento campione di braccio di ferro. Non è per questo che mi battono, a me serve il camion. Lincoln Hawks, la rivelazione di questi campionati. E finalmente il 5 volte campione del mondo, Bull Harvey! Bull Harvey! Io cerco di spezzare il braccio al mio avversario. Per fortuna non sempre ci riesco. Ecco Giuseppe, qua ci siamo nell'apoteosi della camionistità, intesa come categoria virile dell'esistenza, però è un modello lontano a cui magari molti dei nostri tendono, ma difficilmente arrivano. Sì, è Over the Top, in cui Sylvester Stallone incarna questa sorta di camionista che si gioca a braccio di ferro questo camion fiammante. Mi colpisco. Posso tossire? Prego, anch'io ho la tisi. Scusa, quindi è una tisi, è un lazzaretto. Lo trattengo in questa maniera e poi scoppia. È un lazzaretto questa radio, comunque. No, Stallone qui appunto ambisce a conquistare a colpi di braccio di ferro questo camion fiammante. Mi colpì di questo film l'uso del confessionale da reality show, perché c'è un momento in cui i concorrenti cominciano a parlare guardando in macchina e a raccontare le proprie pulsioni, le proprie aspirazioni. C'è questa fila di wrestler brutali che incarnano i vari camionisti, e poi c'è Stallone che è il perdente di partenza, perché poi nel lieto fine americano riuscirà a conquistare tutto, eccetera eccetera. Camion e vita. Ecco, al contrario delle signore che mi stanno scrivendo su Facebook il loro punto di vista e le loro esperienze di vita con uomini camion, telefonano soltanto maschi, come se l'argomento camionista non dovesse riguardare le donne, a parte Serena Grandi, che forse rappresentava un paradosso molto, molto poco percepibile nella realtà. Fatevi vivi, signore, dite anche voi la vostra. 800 24 0024, soprattutto mi piacerebbe sentire la voce di quelle categorie accennate dal nostro amico poco fa, le bariste, le segretarie, le addette ai magazzini, le impiegate agli autogrill. È proprio vero che esista questa sorta di passaggio testosteronico ipergommato al quale non si possa resistere? Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, è un piacere parlare con lei. Ho atteso quasi 2 ore adesso qua per scaricare, che sono a Pavia, e il momento in cui devo fare 2 chiacchiere con voi mi hanno chiamato sotto rampa. Comunque, e cosa deve fare? Sotto rampa cosa deve fare? Devo scaricare il materiale che ho sopra. Cosa c'ha? Che tipo di merce? C'ho degli elettrodomestici. Vabbè, non deteriorabili, lavatrici? No, sono dei frigoriferi. Frigoriferi, vabbè, siamo. Comunque, niente, io volevo intervenire sui luoghi comuni che ci, positivo e negativo, diciamo così, ci accogliamo addosso da anni. Mi dica quelli che realmente corrispondono alla realtà e quelli che in realtà non esistono più, va? Ma quasi tutti non esistono più. Non esistono più quasi tutti, perché radicalmente questa professione qua è proprio cambiata dal giorno alla notte. Cioè non esiste più l'autista di camion come si vedeva anni fa, con gli occhi gonfi e morto di sonno all'autogrill. Siamo ligi a delle regole da rispettare, quindi 9 ore minime o 11 di pausa tutte le sere dobbiamo fare. Quindi dormite molto di più di quanto dorme un qualsiasi essere umano. 11 ore sono tante, figuriamoci. Quindi state tranquilli da questo punto di vista. Sì, però esiste sempre questa idea di una vita nomade, di essere sempre in movimento. È una professione che in realtà può sembrare forse ripetitiva per voi, ma che la vediamo noi da fuori, cioè sono sempre in un posto diverso. Ma su quello non c'è dubbio, perché comunque io personalmente lavoro, io ho 46 anni, lavoro per una, forse la più grossa ditta di trasporti che c'è qui in Italia. Esco la mattina, il lunedì mattina, e torno il venerdì sera, faccio tutta l'Europa, l'Italia, quello che capita. Ma mi dice un aspetto interessante, divertente, emozionante dell'essere camionista, se ce ne sarà uno, perché se no... Ma come le dicevo prima, di emozionante è rimasto ben poco, di divertente anche, perché comunque... Sì, lo alzo subito. Mi scusi perché ero qui con il magazziniere. Anni fa ci si sta caricando, sta caricando il frigorifero in questo momento. Stanno scaricando. Ah, scaricando. Devono iniziare a scaricare. Questo sì. Cigolio è il muletto che lo tira giù. Hanno dei muletti apposta con delle pinze che pinzano due o tre frigoriferi alla volta. È una cosa gigantesca. Comunque le volevo dire, io ho iniziato anni fa dove per andare allo scarico bisognava armarsi di cartine geografiche e di tanto coraggio. Adesso l'autista lo potrebbe fare anche chi fa il panettiere, cioè non è niente, i mezzi sono totalmente cambiati. I mezzi vanno da soli, sì. I mezzi vanno da soli, sì, non c'è. No, perché qualche suo collega si lamentava che ancora esiste questo aspetto di necessità di prestanza fisica, li fanno scaricare come fossero facchini camion, ha detto qualcuno prima, in realtà non potremmo, non fa parte del nostro mestiere, e altri ancora insistono su questo leggendario filone amatorio che accompagnerebbe il camionista. Questo sì, lei prima si riferiva al protagonista del camionista, quei fumetti che c'erano, che si chiamava Mario Vergone. Ah, Mario Vergone, certo, un nome, una passione. Il famoso Mario Vergone. Indicativo. Il Mario Vergone degli anni 70, sì. Potrebbe ancora esistere, ma non lo so, cioè come ci si incontra nella vita normale di qualsiasi altra persona che faccia un altro lavoro, così come facendo questo mestiere qui può incontrare la donna. Sì, secondo me ha più occasioni un impiegato del catasto o di una circoscrizione del comune di Roma che un Mario Vergone della situazione, è tutto lì sotto mano, c'è un sacco di noia e un sacco di tempo a disposizione. Sì, mentre occasioni sulla strada c'è tanta perversione, quello sì, c'è tanta perversione. In che senso? C'è tanto, ma insomma quelle cose tipo piazzole dove vanno scambisti a cercare camionisti, cose del genere, esatto, si legge su, esiste questa cosa? Esistono, a volte bisogna anche ricordarsi bene la piazzola, perché se si vuole dormire un po' tranquilli, no, perché sa, ci sono delle mappe su internet dove puoi andare a regalare tua moglie ai camionisti, e c'è tutta una mappa dei caselli d'Italia, ma io non so quanto sia di leggendario o di vero, se lei ha qualche elemento poi, ce lo dica. Che poi siano le mogli, quello è da stabilire. Beh, o viceversa, moglie dicono, cioè mio marito dovrebbe scapricciarsi con un camionista, quello può succedere, mica figuriamoci. Ma in tutta Europa. Ma le è accaduto questo? Ma a me è accaduto di sì, è accaduto, ma senza far niente di concreto, perché comunque... Senza penetrazione. Sì. Senta, ma com'è il messaggio? È vero che lampeggiano con i fari, tre lampeggiate moglie, sei lampeggiate cognata, una lampeggiata suocera, come funziona? Ma il collega che mi ha preceduto ha fatto un esempio, a volte può capitare, se non si è sovrappensiero, di buttare uno sguardo giù dal finestrino e sì. Scopre l'infinito. Sì, scopre l'infinito. sì, è vero. Vabbè, però c'è sempre quel dubbio lì, a fermarsi non è una cosa semplice. Poi c'è chi vive solo di quello, tra i miei colleghi. Sì, ma c'è nelle piazzole in realtà questa pullulare di vita notturna, questa sorta di girone infernale in cui accade di tutto, o è solo fantasia anche questo? Ma Nicoletti, questo pullulare di vita notturna nelle piazzole 99% è solo di omosessualità. Ah beh, cioè anche quello è un articolo che a qualcuno interessa, noi dobbiamo disprezzarlo. Quindi sono i gay che vi cercano in maniera più insistente. Evidentemente se c'è tanta offerta, dice, c'è tanta richiesta. Esatto, esatto. Va bene, grazie Fabio, ci ha aiutato a completare e ampliare il quadro. Sansone, devi aggiungere qualcosa? La tua capacità maieutica è sempre commovente comunque. Beh, quando uno capisce c'è la notizia deve insistere. Oh, bravo, sei un fenomeno. dunque solo casino, ma è un film che mi stanno chiedendo tutti perché non ne parlate due, quindi parliamone. Il primo film di Spielberg in cui questo commesso viaggiatore si trova con la paura appunto dell'inconscio, ovvero il camionista come terrore, non si vedrà quasi mai, si intravede solo appena per un attimo il guidatore di questa autocisterna che ingaggia questo duello testosteronico da film western lungo queste strade americane, appunto questa sorta di duello che vedrà però soccombere il camionista, di cui non scopriremo l'identità, ma lo vedremo dissolversi in questa scarpata, in questo incidente finale, perché è la minaccia della follia, è l'attribuzione al grande mezzo su strada di tutte le paure inconsce o le paure, l'inquietudine della tecnica degenerata, eccetera. Sì, dall'estrema astrazione all'iperbole surrealista e fantastica, quasi cyber, andiamo alla matriciana de Noantre. Intanto, proveniente dal profondo sud, un altro super tifoso, noto nell'ambiente dei camionisti col soprannome di Tirzan, si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato, quello tra il Torino e la Juventus. Una bella notizia per i tifosi della Juventus. Virdis, contrariamente a quanto annunciato, sarà regolarmente in campo con la maglia... Bene, bene! Vai, vai, tamburino zatto! Non potevi mancare al più classico degli appuntamenti. Oggi i pali della porta avversaria vibreranno al nono grado della scala Macalla. Te lo dice Tirzan, te lo dice. Togliamo una curiosità. Tirzan, quando Abatantuono non era un attore impegnato e drammatico, faceva anche Tirzan. Faceva l'Ur meridionale, qui carica sul camion il principe Caracciolo. Caracciolo il suo, no. Era questa caratteristica che faceva spesso il gay. E comunque appunto. Vabbè, quindi la conferma, diciamo, della testimonianza.